Non te li tagliare, ma non te, tu fidati di me. Ma io voglio tagliarmi i capelli. Ma non posso decidere non, io, perché devi decidere tu? Sei sempre lì che mi dici fai questo, fai l'altro, come se fossi te stesso. Sono io, deciderò io cosa fare dei miei capelli. Voglio ma dire. Invece no, perché stai male, non te li tagliare. Semmai te li taglio io. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Carmelo Lauricella e un saluto da Laura Faggini. Ma basta con questa gag, siamo Cappa e Drago. Ma dai, intanto allora li salutiamo, sono di là del vetro, esatto, del vetro dell'asilo. Ciao, ciao, ciao, bravi, bravi, bravi. Però parliamo di calcio, quindi parliamo di calcio. Io sono già esaltato, io me ne vado, anzi, allora facciamo così. Allora, ciao, io vado. Ecco, questa è la sigla del 90° minuto, te ne vai. Allora sì, posso farcela da solo tranquillamente. Ciao. Sì. Fai, fai da solo, fai. Fai l'editoriale come il bambino Minzolino. Vabbè, da solo. Se gli editoriali del bambino Minzolino parlassero di calcio, sarebbe un mondo migliore. Quindi io, nel mio piccolo, cerco di migliorare il mondo con questo editoriale. Cergo. Volevo segnalare una cosa da bambini e per bambini, ma da cui possiamo imparare molto. In Turchia, la partita di calcio tra Fenerbahçe e Manisaspor si è disputata davanti a un pubblico composto esclusivamente da bambini e da donne. Ingresso vietato ai maschi adulti. È una provocazione del Fenerbahçe, grande e gloriosa squadra di Istanbul, che combatte da anni contro una tifoseria esasperata. 40.000 tra donne e bambini di entrambi i sessi hanno assistito quindi alla partita finita 1-1. Grandi complimenti dall'UEFA al Fenerbahçe e la proposta di replicare l'idea nelle partite cosiddette a porte chiuse. Tutto bene quindi? Assolutamente no. A me, da maschio adulto, viene una grande tristezza nel vedermi discriminato in quanto maschio adulto e quindi, secondo qualcuno non so chi, incapace di controllarmi allo stadio. Io sono un maschio adulto che non ha niente a che vedere con quelli che vanno a far casino allo stadio, va bene? Come la mettiamo? Non si tratta forse di discriminazione con tanto di applauso dal UEFA? Questo appello non è uno scherzo, aspetto spiegazioni. Nella mia qualità di maschio adulto, in grado di controllarmi, a differenza di quello che pensa il Fenerbahçe e di quello che pensa l'UEFA. E voglio dire, se un luogo pubblico fosse vietato alle donne, voglio vedere cosa succederebbe. Vale a dire agli arabi. Vabbè, comunque, ma qui Drago, dico, no? In Turchia. Sì, ho capito, ma è finito l'editoriale alla Bambino Minzolino. È finito. Vabbè, se continui, diventa poi tipo l'articolessa di Barba Papà Scalfari. Oh, per carità. Quelle robe che comincia a leggerlo alle 2 del pomeriggio, la domenica, e poi alle 9 sei ancora lì che bla bla bla, che gli altri hanno già mangiato, sono già pronti per andare a letto. Sai, domenica sera si va a letto presto. Però a quell'ora in TV poi c'è Controcampo con Cruciani, uno appunto, potrebbe stare no, appunto, vai a letto, no? Scusa. Chiedo asilo! Va bene, passiamo a cose più leggere, tipo il nostro concorso sul testo della canzone Gildo Gildo, ricordate? Questa è la musica e sta a voi scrivere il testo. È difficile per me. Ha mandato uno, da un certo Faber, che era il nomignolo di De André, quindi volebbe con questo segnalare. Magari lui è bravo, no? Bravo come dice De André. T'ho trovato al giardinetto che chiedevi un po' d'affetto. Qui la metrica è tutta fuori. Non sei una delle mie immaginazioni, come dicono quei soloni. Soloni? Cosa? È una specie di refuso? Beh, soloni, sì, un'altra cosa. Per il torello fa Gildo, Gildo, vammi a prendere un buon tè. Ma ci Gialino, sta almeno non questo. Ci sta. Gildo, Gildo, K e K, K Drago. Non K e K, scusa chi è. Vabbè, Lego che sì, certo. Gonfia. Non vedo un tè. No, non ci disastro. Siamo. Disastro. Siamo allora come B e Ghedini, mi ripari dai miei casini e come compensazione io ti ho scritto una canzone. Quindi una questa canzone dovrebbe essere. Esatto. Gigi, cosa ne pensa Maestro K? Almeno il testo non corrisponde alla metrica, va bene. Ma quali altri commenti possiamo fare su questa composizione? Ma direi che il Faber qui che ci ha proposto questo testo dovrebbe passare ad altre attività, come per esempio quella della cucina, la cucina delle torte, e nello specifico gli consiglierei le ricette della torta Margherita Primavera Arcobaleno. Cappa, guarda questo sacchetto. Vabbè, è un sacchetto di pistacchi. Cosa devo guardare? Scritta, dai, c'è scritto: vinci, viaggi in USA, iPad e iPod. Per uno della mia generazione cominciano i problemi, perché ok, un viaggio in USA, però un viaggio in iPad e iPod non l'avevo mai considerato. Dove sono l'iPad e l'iPod? Saranno vicine all'Iraq o all'Iran, oppure sono tasse vampiresche come l'IRAP. No, il mistero si infittisce se si va su Google, l'infallibile motore di ricerca, indagando su iPad e iPod, è venuto fuori che l'iPad è un tablet computer in grado di riprodurre contenuti multimediali e di navigare su internet. Ecco, invece che l'iPod è... L'iPod è un lettore di musica digitale basato su hard disk e memoria flash, presentato sul mercato il 21 ottobre 2001. Ma che sto dicendo? Ora qualcuno mi deve spiegare come si fa a vincere un viaggio in iPod e iPad se sono degli aggeggi elettronici e non delle mete turistiche. Se qualcuno ce lo può spiegare, pregato di farlo utilizzando la bacheca della pagina di Chiedo Asilo su Facebook. Al massimo il viaggio lo vinciamo lì, no? Ma lì dove? A Facebook. Questo è molto divertente. Oh, però a Drago è bellissimo qua. È tutto azzurro. È Facebook. Sì, hai visto? C'è Tom. Chi è Tom? Il primo amico. No, quello di MySpace, che però adesso è andato anche lui su Facebook. Vedi. E ha anche spiegato come mai è su Facebook, perché lui non è più su MySpace. Drago, sai cosa ti dico? Vorrei condividere questo evento con te. Vabbè, allora fai così, allora. Ma a te ti piace? A me piaceva, ma non mi piace più. Ma come? Allora condividiamo un altro evento. Borse in disfatta. Le borse con la B maiuscola stanno crollando miseramente. Vabbè, allegri e contenti. Non lo so, tanto male. E il mercato con la M maiuscola anche. Collassando. E quindi il mercatino con la M minuscola invece va sempre meglio, per questo rido, Drago. E benvenuti al mercatino globale di Chiedo Asilo, dove il denaro è stato abolito e il baratto regna sovrano. Oh, io avrei una cantina da svuotare. Interessante. Come ci si comporta in questi casi qui nel mercatino globale? Si emette una offerta plurima e aspetti i risultati, no? Devi svuotare una cantina. Risultati, stiamo parlando di baratto. Io non mi interessa niente, svuotatemi la cantina, io sono già contento di fare il giro giretto con lui mentre la svuoto. Il baratto sarebbe tu. Vado alla discarica la con lui. Mi accompagna, sono contento. In effetti il safari nelle discariche sarà lo sport del futuro, perché le premesse ci sono tutte. La caccia alle pantegane, per esempio. Guarda, ti porti il fucilino. C'è di tutto nella discarica. A piombini, come quello che volevano usare contro Ratzinger. Sì, vabbè, ma Ratzinger è la pantegana, non vogliamo mica fare certi. Per carità, poi stiamo parlando di spazzatura qua. Comunque, come stanno andando i titoli del mercatino? Possiamo saperlo da Sì, è in costante crescita il mercatino globale in generale, anche se dobbiamo registrare un'immissione massiccia di titoli spazzatura sotto forma di interi stock di souvenir della abortito G8 della Maddalena. Vabbè, ottima dritta per gli investitori. Abbiamo qua delle bocce con la neve finta. Esatto. La Maddalena non so se è mai nevicato. Vabbè, però è così, quindi attenti ai souvenir, quelli con la neve, quelli senza neve. Controllate che provengano da Roma, da Pisa, da Firenze, da ovunque, ma evitate come la peste quelli del G8 della Maddalena, che non è mai avvenuto. Ecco, e per partecipare a questo mercatino globale di Chiedo Asilo basta scrivere sulla nostra bacheca di Facebook, che Facebook è un posto bellissimo, Drago. Guarda, siamo di nuovo in Facebook. Hai visto quante fotografie? Sai che non ce ne piace. Frega niente. No. Quello non mi piace più, però, quello. Sì. Mentre vorrei condividere questo evento. Sventolano le questo bandiere. Questo è l'attenti in presenza del generale a due stelle, se non sbaglio. Questa è la bandiera che sventola. E quella è la bandiera che garrisce o barrisce, non mi ricordo mai. Ma barrisce l'elefante. Vabbè, anche la bandiera. Torniamo domani! È morto.